Parliamo infatti di una questione che riguarda la Marino, la frazione di Marino, di Santa Maria del Mori, la zona di Mugilla e del Divino Amore, dove da due anni a questa parte è stato deciso appunto una immensa colata di cemento dalla giunta di Marino, quindi guidata da Palozzi, in combutta con la Polverini e in combutta con tanti imprenditori, tanti costruttori sia locali che non. Ne parliamo quindi con Davide dell'Assemblea contro la cementificazione appunto di Santa Maria, a cui chiedo appunto di spiegarci un po' la situazione, un po' come è nata e quali sono i punti critici e i punti contro cui si batte appunto l'Assemblea e i metodi che sta adottando per lottare contro questo ennesimo scempio ambientale. Allora sì, ciao a tutti e tutte, innanzitutto, e appunto come diceva Nicolas, quello di cui l'Assemblea contro la cementificazione si sta battendo in quest'ultimo anno e mezzo, per l'esattezza da giugno del 2000, da agosto del 2011, cioè da quando l'amministrazione Palozzi, appunto in combutta con la Polverini, ma già in combutta a suo tempo con Piero Marrazzo, quindi sia con il centrodestra sia con il centrosinistra, e quindi rimane abbastanza lampante il fatto che questi giochi di potere tra i costruttori legano sia, c'è un filo che lega tutta la politica, non ha un colore, non ha una bandiera, ma ha un solo odore, quello dei soldi. E noi ci stiamo battendo quindi da un anno e mezzo per evitare che Santa Maria delle More, già città dormitorio a causa delle speculazioni degli ultimi 10, 15, 20 anni, che appunto il Divino Amore faccia la fine di Santa Maria delle Mole. Il Divino Amore oggi è ancora parte dell'agro romano, l'ultima osi che bene o male protegge i castelli romani da Roma, dal lato della dorsale nettunense alla dorsale ardeatina, e la speculazione in questione contro cui appunto noi ci stiamo muovendo riguarda 1,5 milioni di metri cubi di cemento, 1,5 milioni di metri cubi di cemento che porterebbero a Marino oltre 15.000 abitanti, che porterebbero quindi nuovi rifiuti, porterebbero quindi nuovi consumi, senza fare come è ovvio e come ci diceva, come ci ha introdotto il film di Francesco Rosi, che era del 63 ma sembra scritto oggi. Ci introduce il fatto che i servizi sono sempre l'ultimo dei problemi dei costruttori, e i costruttori che oggi stanno giocando sono gli stessi squali che giocano a Roma, gli stessi squali, gli stessi avvoltoi che giocano in tutta Italia con il TAV, con l'inceneritore ad Albano, che ci avvelenano con i rifiuti, che ci avvelenano, che ci sfruttano con il lavoro nero e via dicendo. E in questione appunto, tornando sul Divino Amore, qui parliamo di Parnasi, parliamo del gruppo Giannini, di Parnasi di Parsi Italia, e l'Assemblea contro la cementificazione in primo punto cerca di muoversi su due linee, che sono quelle della mobilitazione popolare e quella della mobilitazione dal punto di vista legale, dove appunto abbiamo depositato già due ricorsi al TAR, uno nel febbraio del 2012 al Presidente della Repubblica, che riguarda tutta la questione del Divino Amore, e due invece più specifici, fatti ex novo, che bene o male si andranno ad accoppiare, che stanno per essere depositati in questi ultimi giorni, che riguardano le due lottizzazioni che la giunta Polverini, già caduta nei giorni prima di cadere, ha cercato di muovere in fretta e furia e farle passare, quelle più grosse di Eco Village e quella di Mugilla, se non erro. E in questi tempi quindi è importante appunto in questo momento stringere, accelerare il passo per evitare appunto che quello che è già successo, che sta succedendo in molti quartieri, che è già successo in molti quartieri a Roma, che succede a Santa Maria delle Mole, le speculazioni edilizie, che appunto sono oggi uno degli esempi più lampanti della mala politica, della mala urbanistica, avvengono nel Divino Amore, perché oggi al Divino Amore, ripeto, non è stato ancora sversato un metro cubo di cemento, e non si sverserà e non verrà versato se ci opponiamo come stiamo facendo in quest'ultimo anno e mezzo. Ah, sì, tu hai parlato di interessi, diciamo, molto forti che ci sono dietro questa colata di cemento, ennesima colata di cemento che vorrebbero abbattere appunto sul nostro territorio. Sul vostro sito, che lo ricordo, è stopcemento.noblogs.org, c'è una paginetta molto interessante che è quella sulle società cementificatrici e diciamo, tornano dei nomi noti rispetto alla speculazione edilizia. Sia diciamo nomi di grandi costruttori, ma anche di costruttori locali che tanti danni hanno fatto a questo territorio. diciamo, il nome più evidente è quello di Parnasi, sicuramente, di cui abbiamo anche parlato qui quando appunto alcune settimane fa ci fu la mobilitazione dei movimenti per la casa, appunto ribadendo come insieme a Caltagirone, che è sicuramente l'imperatore del cemento di Roma, anche Parnasi ha fatto la sua parte. Tra l'altro Parnasi è quello che alcuni anni fa, nel 2011, ha costruito tutto il quartiere della Bufalotta con una colata di cemento di 2.700.000 metri cubi, quindi la Bufalotta, il centro commerciale relativo, e anche lì appunto sempre un nuovo quartiere, quasi una nuova cittadella, dove però i servizi o sono stati previsti per dopo, comunque non sono mai effettivamente arrivati. Però torna, diciamo, questa radio sta a Genzano, e torna un nome che a Genzano è molto noto. Diciamo, Parnasi si occupa di 480.000 metri cubi, da quello che leggo sul vostro sito. Poi c'è un intreccio molto fitto di società, cose a scatola cinese, appunto dell'Eco Village, ma anche i restanti 214.000 più 33.000 metri quadrati sono gestiti per la maggior parte dal gruppo Giannini, che a Genzano conosciamo bene, visto che Carlo Giannini è il presidente della Cogianco Calcio a 5, quindi diciamo degli interessi immensi, sì. No, appunto, questo volevo ricordare, insomma, degli interessi fortissimi dietro. Un appunto su Giannini, che anche se Nicolas appunto parlava di una lottizzazione piuttosto piccola rispetto alla fetta, la lottizzazione di Giannini, che riguarda i 33.000 metri cubi, in verità è una lottizzazione molto importante, perché apre poi, è la prima lottizzazione che apre alla tangenziale che verrebbe fatta per portare poi i mezzi da cantiere nelle nuove aree in costruzione. Quindi è proprio una delle prime delle due lottizzazioni che la Giunta Polverina ha cercato di far passare, per capire quindi come comunque a Giannini gli hanno dato una fetta sì piccola, ma la fetta forse più importante. Quindi sono sempre i stessi nomi che ritornano, che stanno sempre a braccetto con Marrazzo ieri, con Montino l'altro ieri, oggi con Palozzi, con la Polverini e via dicendo. Ok, poi leggo appunto su uno dei vostri comunicati appunto che ci sono tre punti, no? Nello specifico su cui vi siete concentrati tra le varie cose, però sono quelli da cui è partito un po', cioè questo problema della destinazione d'uso. Sì, appunto, il ricorso è abbastanza ampio, il ricorso al TAR che abbiamo fatto, e si muove principalmente su alcuni punti. Ne prendiamo delle lucidazioni per farvi capire appunto come è grossolano il malaffare, la malurbanistica che si c'era dietro il Divino Amore. Il semplice fatto è che, per esempio, manca la via, la valutazione di impatto ambientale, la stessa via che viene fatta per un inceneritore, per un TAV, ma anche per un qualunque cantiere di queste dimensioni. E qua l'ingegnere di Marino, Stefano Petrini, disse che a Marino non serviva per il Divino Amore la via, la valutazione di impatto ambientale, bensì la VAS, perché si parlava di pochi ettari. In verità serve la via, la valutazione di impatto ambientale, ma poi per spiegare le loro bugie lo dimostra il fatto che neanche la VAS venne fatto in quel caso. O un altro punto, il fatto che non c'è mai stata un'indagine sul fabbisogno idrico, lo stesso fabbisogno idrico che emerge oggi sulle questioni dell'inceneritore di Albano, sulle questioni della discarica o dei pozzi spia, o sulle questioni che riguardano l'inquinamento di fluoro arsenico che tanto gravano sulla salute dei castelli romani, tornano qui a gran passo. Non è mai stata fatta un'indagine sul fabbisogno idrico, e quindi ci chiediamo com'è possibile che portare 15.000 nuovi abitanti e poi l'acqua dove la prendono, se lo stessa legge impone il fatto che l'acqua non deve essere presa da sottoterra, ma dovranno essere portati dei pozzi apposta. E chi farà mai dei pozzi? Quindi un'altra volta ci troveremo con case senza pozzi neri, senza collegamenti in fogne, senza acqua potabile, e ci troveremo con, tornando sempre all'inceneritore di Albano, con 15.000 nuovi abitanti che sverseranno rifiuti sempre a Roncigliano, che è una discarica da anni fuori legge, eppure loro continuano a fare i loro porci comodi. Ed è per questo che dobbiamo continuare appunto a stringere il passo, ad allungare il passo. Allora, prendiamoci un attimo di pausa, mandiamo una traccia musicale e poi continuiamo a parlare di questa questione sempre con Davide. Argue lo so con sta bella Sicilia d'incia Roma core sta vampa forte brucia vampa da cresce che non si ascolta mai che mischia corpo e musica soltanto se lo vuoi soltanto se lo vuoi capisci la mia rabbia si riversa su un sistema che ci vuole chiuso in gabbia con sbarre invisibili che stanno dappertutto la libertà apparente ed è per questo che io lotto la domenica allo stadio il grande fratello nei televisori mentre la gente impazzisce chiedendo il reddito minimo e lavoratore contributi delle pensioni quando arriveranno ci risciuri tutto l'anno ma sto governo con me a danno a Sicilia sta chiantenno e te mangiano e se ne fottono comandano con la mafia e sta povera terra sfruttano ma nella vita mia la lotta è melodia sul reggae è fuoco che brucia sul reggae è acqua che rocia sul reggae ne faccia pensare sul reggae ne faccia ballare sul ritmo come una femmina essere dolce e passionale ballare e pensare sapendo che lo messaggio arriva diretto compagni che adunciate in sol pensano a mondo e lo fanno perfetto per quelle donne che sopra una sciata sanno a venire per campare per tutte le parti famiglia che senza cavallo spacciano per mangiare per te pezzi ride con mille problemi che a scuola non possono andare perché devo manno a giocare in questo mondo non ci vogliono stare per tutte le pratiche in nome di Dio vogliono avere invece di dare per la gente che si accontenta che vede problemi ma resta a guardare per tutti quei ladri che amate i politici che hanno pensato solo a rubare piboni, pipinta, gente strana sta a consigliare libera il tuo spirito da ogni repressione non ce la farai se pensa a quello che non hai fatti trasportare da una sana vibrazione dico vivi questa musica e non ti fermare mai compagni, compagni, compagni in mia insasciata riunioni, cortei e lotte passa una voce aggiornata combattere il sistema e affrontarlo con coraggio la nostra lotta è il solo ogni compagno un singolo raggio intanto la mia mente vaga viaggia lontano la mente quando scrive è più veloce della mano passando da Fallujah sopra i monti del Nepal il mio pensiero arrivo fra le mummie a Bujamal e l'Afghanistan, il Kurdistan, la Palestina usando spettacolo no mondo passare in ceno serena senti la voce di chi combatte quella indifferenza un fiore malvagio che sboccia in una profonda disuguaglianza siamo diversi per condizione siamo diversi ed un noto di fatto tu te ne fotti perché ti conviene tu te ne fotti e io combatto è il sole che ci cuoce è l'acqua che ci bagna ma ogni fottuto dolore non vale quanto il sorriso di una compagna un proletario che pensa che un mondo fa schifo e che niente rimane da dire di un suo negozio c'ha l'assare l'occhio perché manco niente se voglio cacciare aumenta la vita aumenta restano basse solo le salare guarda che arricchisce quel povero invece non sai più come cazzo va a campare chiedo unità contro la globalizzazione compagni tutti uniti questa è l'unica soluzione tra sacrifici abili e sogna vita ricompagni sul reggae pennulate sul reggae ti compagni Allora, torniamo in diretta sempre con Davide, sempre per parlare appunto della questione della cementificazione del divino amore. Appunto Davide ci ricordava di questi ricorsi al TAR che come sappiamo sono costosi e quindi loro hanno lanciato anche una serie di iniziative per appunto sottoscrizione fondamentalmente per raccogliere appunto i soldi necessari per mandare avanti questa battaglia e appunto ci sono delle iniziative a breve di cui ci parlerà appunto Davide. Ah, sì, innanzitutto come avevamo detto prima i due ricorsi che abbiamo fatto naturalmente hanno avuto un costo, noi non siamo finanziati da partiti, da sigle, da bandiere, ma ci muoviamo con le nostre forze ed abbiamo raccolto sempre i soldi attraverso autofinanziamenti da cene, raccolte da cene, di autofinanziamento e via dicendo. Ed è per questo quindi che invito sia tutti e tutte a una mobilitazione, quindi a tutti gli interessati a venire ogni lunedì, noi facciamo assemblea a Santa Maria delle Mole in via San Paolo Apostolo, 19 dietro la stazione di Santa Maria delle Mole ogni lunedì alle 9:30 appunto

Meglio buttarsi a fiume tralala, che fa sta vita qua. Meglio buttarsi a fiume tralala, che Anna lavora. Me butto, guarda che me butto, me butto. E butta, ascolta Radio Default. Mai più io sarò sano. Tutto è successo a Genova, luglio 2001. Il mondo si è fermato, adesso ripartiamo. Noi siamo morti a Genova, luglio 2001. Il mondo si è fermato, mo ce lo riprendiamo. Ritorniamo in linea, in diretta con notizie internazionali, brevemente, prima di passare agli aggiornamenti locali. Una notizia che viene dall'Argentina, dove appunto ieri sono stati condannati alcuni personaggi, tra cui un sindacalista dell'Unione Sindacale Ferroviaria, legata alla CGT, sindacato peronista vicino alla Presidenza della Repubblica, quindi vicino alla Kirchner, per cosa? Lui insieme ad alcuni poliziotti, ad alcuni addirittura membri di alcune tifoserie, per cosa? Per un fatto gravissimo successo 2 anni fa, quando nell'ottobre del 2010, durante uno sciopero organizzato a Buenos Aires, sciopero organizzato da parte dei lavoratori esternalizzati delle ferrovie, quindi a seguito appunto dell'esternalizzazione, dell'introduzione di tutta del lavoro precario voluto proprio dalla Kirchner all'interno dell'Unione Ferroviaria, quindi delle ferrovie già privatizzate da Menem, questi lavoratori si auto-organizzano, e cosa che dà molto fastidio appunto al sindacato peronista, un sindacato non solo legato mani e piedi con la politica ma anche con la stessa imprenditoria, scusate, dicevo. Insomma, che succede 2 anni fa? Niente, che piccoli problemi tecnici. Il bello della diretta. C'è questo sciopero organizzato, il sindacato appunto, la CGT, organizza quella che in Argentina viene chiamata patota, che possiamo tradurre con il nome di squadraccia, una squadraccia composta da oltre 50 persone che carica in tutto e per tutto appunto lo sciopero con armi in pugno, e quindi vengono ferite 6 persone, tra cui 2 donne, e Mariano Ferreira, un compagno del Partito Obrero, cade e muore di lì a poco. Ieri appunto è stato finalmente condannato a 15 anni di carcere Pedrasa, leader del sindacato ferroviario della CGT, e altri suoi complici. La famiglia, in realtà la famiglia, i compagni, in tutti questi anni di mobilitazione chiedevano in realtà non 15 anni perché, ma chiedevano l'ergastolo, e soprattutto chiedevano, come leggiamo in alcuni comunicati, appunto, che venisse fuori quello che in realtà nelle prime udienze era venuto fuori, ossia l'esistenza di un piano, un vero e proprio piano criminale orchestrato dall'Unione Ferroviaria insieme alla Polizia Federale, che ha avuto un ruolo importante, perché di fatto ha protetto, e si vede anche nelle immagini, nei video, ha protetto di fatto l'attacco di questa squadraccia. Questo non è avvenuto, e naturalmente non è avvenuto perché appunto dal governo ci sono state fortissime pressioni nei confronti dei giudici, che però sono stati costretti in qualche modo, nonostante la corruzione dilagante in quel paese, a condannare comunque a pene altissime, perché in questi due anni la mobilitazione per chiedere verità e giustizia per la morte di Mariano Ferreira è stata fortissima. Ci sono state le prime manifestazioni, hanno visto scendere in piazza oltre 300.000 persone, anche ieri davanti al tribunale c'erano più di 20.000 persone, quindi la pressione popolare dal basso è stata molto forte, ha portato appunto a questo risultato, seppur parziale, comunque importante. Quindi, prima di passare alle notizie locali, ascoltiamoci una canzone di un gruppo ska argentina dedicata proprio a Mariano Ferreira. Thank you. E prima delle iniziative locali mandiamo la sigletta delle iniziative locali Alberto Radius nel ghetto, perché il ghetto ci piace. Fair play, mi vorrebbe come lei. Io non ho cultura, ma non voglio stare male. Chi si arrangi, chi ha paura del caviale. E bruciare tutto non è sempre così brutto come leggi il giorno dopo sul giornale. E sfumiamo Alberto Radius, che non era Lucio Battisti, ricordiamo sempre Alberto Radius. 15 e 12 minuti primi, cambio di voce per Ops Connecting Fights. Sicuramente prima non vi hanno dato i nostri contatti, siamo su radio, sulle frequenze di Radio Default, anche perché il compagno che ci segue prima, quello che fa una noia mortale, che parla poco ma vi fa dormire, si dimentica queste cose. E quindi no, siamo su Radio Default, il nostro sito è www.radiodefault.it, i nostri contatti Skype per intervenire in diretta è radio.default, siamo una radio che lascia sempre esprimere, a parte fascisti e razzisti e sessisti, tutti possono intervenire in trasmissione. E ovviamente sempre che abbiano metodo. E ricordiamo, questa è Ops, la trasmissione che si occupa delle lotte ambientali e sul lavoro del nostro stupendo stivale, e il nostro blog è occupazioniprecaristudenti.noblogs.org. Ricordiamo anche oggi che l'unica, in genere da questa radio non lo sentite mai, l'unica vertenza ambientale che è stata risolta con una, è stata vinta con una grande mobilitazione fino adesso, è stata quella contro le scorie a Scanzano Ionico, dove la popolazione della Basilicata è scesa quasi totalmente in piazza, quasi il 50% degli abitanti della regione, nonché coloro che sono stati costretti a fuoriuscirne, hanno preso le strade della Basilicata per dire no a allo stoccaggio delle scorie e alla distruzione del proprio territorio. Quindi va bene, ripigliamo con gli aggiornamenti locali e nazionali. Andiamo sul nazionale parlando di Anonymous. Ricorderete, conoscerete tutti il collettivo di hacker, il collettivo mondiale di hacker che sostiene ciberneticamente con i Tango Down, con gli attacchi DOS e via dicendo, varie mobilitazioni o varie situazioni in giro per il mondo. L'ultima più famosa è stato l'attentato contro i siti internet dell'entità sionista in solidarietà con la causa palestinese, ma il collettivo Anonymous porta avanti anche molte altre operazioni che vengono che non hanno lo stesso eco sulla stampa. In questo caso noi prendiamo la notizia dal sito ufficiale di Anonymous Italia. Ci sono state due operazioni abbastanza importanti, sempre che riguardano l'ambiente. che sono appunto Operation Green Rights, operazione diritti verdi. La prima è stata contro il rigassificatore di Gioia Tauro, che appunto ha visto l'attacco, il Tango Down, contro il sito dell'Enel e contro il sito del porto di Gioia Tauro e del Consiglio regionale della Calabria. Successivamente hanno fatto un'altra operazione contro i rigassificatori, questa volta in Toscana. Ricordiamo rigassificatori a Livorno, il rigassificatore di Livorno, costruito da una ditta di Dubai, e che andrebbe a distruggere il santuario, il famoso santuario dei cetacei, che ormai è in via di distruzione ecologica. E quindi anche qua Operation Green Rights Anonymous fa un lungo e corposo comunicato in cui motiva il Tango Down di Minambiente.it e Altoffshore.it, che sono due siti delle ditte che stanno costruendo questi ecomostri, e anche il sito del comune di Livorno, dell'ASA SPA, del porto, della Grimaldi Lines e delle navi e delle varie crociere che attraversano appunto il famoso santuario dei cetacei. Quindi la nostra totale solidarietà ad Anonymous e ai compagni ovviamente livornesi e toscani e calabresi che lottano contro le nocività. Dai microfoni di questa radio mi sento di dover fare un appello: cari compagni di Anonymous, venite e buttate giù anche qualche cosa in sostegno alla lotta contro l'inceneritore di Albano. Passiamo poi a Party Flash, passiamo poi al MUOS. Abbiamo visto che è una vertenza che stiamo seguendo particolarmente con questa radio, sia le iniziative che avvengono giù, sia le iniziative indette dal Comitato Romano Non MUOS, Comitato Non MUOS che sta lanciando una settimana di mobilitazioni. Andiamo a leggere un articolo dal giornale online Contropiano, scritto dai comitati Non MUOS, che si chiama Niscemi, cittadini a libertà limitata. La polizia rimuove due volte i blocchi della gente contro il MUOS. Da domani inizia la settimana di mobilitazione Non MUOS. Ieri per ben due volte sono stati violentemente rimossi i blocchi di alcune decine di attivisti dei comitati Non MUOS e delle mamme Non MUOS di Niscemi e Caltagirone, del transito dei mezzi militari USA, tre automezzi, e degli operai, quattro auto, che lavorano nella base della morte. Mentre nel pomeriggio sono da poco transitati tre grosse autovetture con vetri oscurati e tre furgoni carichi di operai con lo stesso dispiegamento di forze. Oramai quasi giornalmente transitano i mezzi, è dal 22 novembre, ben sei mesi che abbiamo iniziato, ed è tragicomico ascoltare le ridicole giustificazioni del commissario Presti per convincere a permettere il transito dei militari USA e di qualche operaio. Sin dalle prime ore del mattino, con grande dispiegamento delle forze del disordine, le strade adiacenti sono state bloccate per impedire l'afflusso dei niscemesi. Il sindaco La Rosa, anche stavolta, era irrintracciabile e si è presentato dopo che gli sgomberi erano avvenuti. Ricordiamo, tra l'altro, aggiungo io, il ritardo con cui si è presentata alla sua stessa manifestazione indetta a Roma lo scorso lunedì. L'imbarazzo era notevole anche per le forze di polizia, costrette a intervenire non per arrestare appartenenti a clan mafiosi o per impedire i lavori nella base USA di ditte sprovviste di certificato antimafia, ma per eseguire il vergognoso ordine di sgomberare pericolose sovversive come le mamme Non MUOS e gli antimilitaristi dei comitati e del presidio permanente. Purtroppo questo allarmante quadro è la conseguenza dell'offensiva mediatica del console USA Moore, con la sua venuta in Sicilia, dell'irresponsabile delega agli studi indipendenti dell'Istituto Superiore della Sanità e, casualmente, della mancata nomina ufficiale del professor Zucchetti del Politecnico di Torino, quando da decenni chi ci ha governato a livello nazionale, regionale e locale è stato complice e o colluso con gli interessi bellici degli USA, calpestando l'articolo 11 e 32 della Costituzione. È più che giusta la ribellione delle popolazioni niscemese e siciliana e anche del resto d'Italia, ove si moltiplicano i comitati non muos, che dopo l'incoraggiante successo della manifestazione nazionale del 30 marzo si sta consolidando ed estendendo. Chiamiamo chi finora solo a parole si è schierato al nostro fianco a sostenere nei fatti le future mobilitazioni di lotta e a praticare la revoca dal basso partecipando ai blocchi per fermare la costruzione del MUOS e per smantellare le 46 antenne USA NRTF. E quindi ci ricordano anche che la mobilitazione, questa mobilitazione anticipa la settimana resistente non MUOS prevista dal 21 al 28 aprile. E proprio su questo tema andiamo a dare notizia di un'iniziativa che si terrà al Cinema America il prossimo 26 aprile 2013. Sempre appunto indetta dal comitato romano non MUOS, dall'isola alla valle, spinta dal basso, sollevazioni popolari. Continua la stagione delle lotte dal basso, dalla Valsusa no TAV alla Sicilia non MUOS, ma sembra difficile collegare fra loro queste sollevazioni popolari, far emergere notizie sui loro sviluppi e, nel caso del MUOS, riuscirne a raccontare le loro stesse origini. L'iniziativa spinta dal basso del 26 aprile al Cinema America Occupato intende aprire uno spiraglio su questo tema, approfondendo la vicenda MUOS in Sicilia e tentando di intrecciarne le ragioni e le prospettive con la lotta al TAV in Valsusa. Saranno presenti attivisti non MUOS provenienti da Niscemi e no TAV dalla Valsusa e non solo. Oltre agli attivisti no TAV non MUOS hanno già dato disponibilità a partecipare Rai News 24, la Fondazione Lelio Basso, Il Manifesto, il collettivo di Nomade e il professor Zucchetti del Politecnico di Torino. La discussione sarà moderata da Manolo Luppichini, che ci ricordiamo aver diretto il documentario Fratelli di TAV, che è anche presentato qua ai Castelli un paio d'anni fa. Invitiamo i professionisti della comunicazione e media attivisti a ragionare con noi sui potenziali strumenti utili a scuotere questo stallo informativo. Durante l'evento saranno presentati due video del collettivo Macnovista. In anteprima, Stop the Train, l'ultimo videoclip dei 99 Posse in chiave no TAV, e L'alba di Niscemi, primo estratto di un documentario in corso di realizzazione sulla lotta al MUOS. E l'iniziativa alla fine si concluderà con il concerto dei 99 Posse, quindi ricordiamo tutte e tutti il martedì 26 aprile al Cinema America Occupato a Via Natale del Grande 6 a Trastevere, dalle 18 fino a tardanotte, appunto per questo... per questa iniziativa. Rimaniamo sempre sul nazionale, lasciando una dando notizia di un'iniziativa di una tre giorni di Atenei in Rivolta, la quinta assemblea nazionale dei collettivi, che si tiene all'edificio di fisica Marconi della Sapienza e a Comuni, al posto occupato in via dei Peligni e San Lorenzo. Nel corso della tre giorni, dicono i compagni studenti, affronteremo queste le tematiche della crisi dell'università, nella crisi della trasformazione del sistema formativo negli ultimi anni, partendo dagli ultimi dati e notizie sullo stato di salute del nostro sistema universitario, tentando tuttavia di non discutere dell'università per se stessa, ma di riuscire a relazionarla con la società e le trasformazioni che anch'essa sta subendo sotto i colpi della crisi. Alla luce dei suddetti cambiamenti vogliamo andare oltre la semplice analisi della situazione, provando a immaginare pratiche e strumenti che siano in grado di contrattaccare sul terreno delle mobilitazioni e della riappropriazione di spazi e tempi di vita che sempre più ci vengono negati nell'università fabbrica di precari. Oggi e domani sono gli ultimi due giorni. Ricordiamo che oggi dalle 16:30 parte una tavola rotonda pubblica, Radicalità e frammentazione, riflessioni sul movimento che non c'è, a Comunia, che è via dei Peligni 3 a San Lorenzo. E tra le varie realtà che partecipano al dibattito, come ad esempio Rimaflo, che abbiamo sentito sabato scorso, Comunia, Unicommon, lo studentato Puzzle, ci siamo anche noi di occupazioni precari studenti. E quindi vi lascio a un breve stacchetto musicale prima di passare direttamente al locale. Abbiamo qui, vi lascio con una canzone di del grande Gianfranco Manfredi, Gatte da pelare. Guarda che se vuoi puoi fare quello che vuoi, Io non sono il tipo che ti legherà al letto. Certo che se poi non trovi quello che vuoi, non tornare qui di nuovo in cerca d'affetto. Io ti guarderò tranquillo, io non muoverò uno spillo. No, che non farò il mandrillo. E sai perché? Di litigare non mi va, sono solo gatte da pelare. Tu l'hai voluta la libertà, siete tutte delle gatte, siete solo gatte, e ritornerete tutte, compresa te. Guarda che se vuoi la coppia aperta ce l'hai, vedi di non prenderti poi troppe correnti. Certo che vuoi andare a tutti i meetings che vuoi, sono mica io che poi ti faccio i commenti. E me ne resterò tranquillo, no, non muoverò uno spillo, no, che non farò il mandrillo. E sai perché? Di litigare no, non mi va, sono solo gatte da pelare. Prendila pure la libertà, tanto siete tutte gatte, guarda, siete solo gatte, e vi pelo proprio tutte, compresa te, ma... Beh, non esageriamo, dicevo per dire, parliamo, parliamo, cosa fai, graffi? No, guarda, se è per quello più femminista di me, che ti ho anche regalato quel libro lì, quello lì della Millet o Mitchell? Mitchum? No. Wheeler forse? No, quello lì è Tex. Quello lì... Ah no, era quello della Belotti. Quello lì, riprendiamoci le bambine. Sì. Polanski libero. Vabbè, ma non si può scherzare, scusa. Oh, ma siete proprio senza il senso dello spirito, eh. E questo qua è dall'album Zombie di tutto il mondo unitevi del 1977, Gatte da pelare, del grande Gianfranco Manfredi, il Battisti compagno, autore di grandi canzoni romantiche come Ma chi ha detto che non c'è, Quarto Giaro Story. E quindi un saluto a tutte le compagne, a tutti i compagni in ascolto, ripiglia Ops Connecting Fights e passiamo agli aggiornamenti locali. Leggiamo innanzitutto un articolo che riguarda la crisi, o meglio, la crisi che ci vogliono far pagare, con un articolo di Paese Sera che racconta della situazione alla Salumificio Fiorucci di Pomezia. Pomezia, Salumificio Fiorucci avvia il licenziamento per 250 lavoratori. I sindacati Fly e Uila si oppongono alla decisione dello storico salumificio di esternalizzare parte della manutenzione, di ridurre drasticamente le figure operaie ed impiegatizie e di ridurre la qualità e lo sviluppo dei prodotti. Le segreterie territoriali di Fai Fly e Uila rendono noto che la Cesare Fiorucci S.P.A., lo storico salumificio di Pomezia, acquisito nel 2011 dalla multinazionale spagnola Campofrio Group, ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 250 addetti, tra operai, impiegati e quadri. Lo scrivono in un comunicato ai dipendenti nel quale informano che venerdì scorso hanno ricevuto la procedura, dopo che in sede di la sede dell'Unione Industriali di Roma erano stati preavvisati dall'entità della stessa procedura di mobilità. I sindacati, le rappresentanze sindacali, si legge nel comunicato, sono rimaste esterrefatte per quanto si preannuncia nel piano aziendale. L'intenzione di chiudere alcuni reparti come quello dei prosciutti crudi, di portare fuori l'affettatura dei crudi stagionati, di esternalizzare parte della manutenzione e delle bilancette, di ridurre drasticamente le figure operaie ed impiegatizie per l'accorpamento di alcuni reparti, di ridurre drasticamente l'assicurazione, la qualità e lo sviluppo dei prodotti. Non può essere condivisibile dalle rappresentanze sindacali, dalla RSU e dalle organizzazioni sindacali di categoria. possono e devono, continuano Moranti, segretario generale della Fly CGL di Pomezia, Passamonti e Persiani di Fai Cisle e Willa Will, essere utilizzati strumenti alternativi che il contratto nazionale e la normativa vigente mettono a disposizione, idonei alla salvaguardia della competitività aziendale delle produzioni e quindi alla salvaguardia dei livelli occupazionali del sito di Pomezia. Le tre confederazioni territoriali hanno chiesto un incontro all'azienda per svolgere l'esame congiunto previsto dalla legge. Dopo l'incontro, concludono i sindacalisti, verrà indetta ed effettuata un'assemblea generale per decidere insieme ai dipendenti come affrontare tale grave situazione. E quindi solidarietà ai lavoratori della Fiorucci passiamo sempre sul locale a una delle varie iniziative che si terranno il 25 aprile. Infatti anche qua a Genzano porteremo avanti delle iniziative, volantineremo la mattina in piazza e faremo un'iniziativa come OPS e andiamoci a leggere il volantino di lancio dell'iniziativa. Il 25 aprile non è solo una ricorrenza. Ogni anno sentiamo il bisogno di parlare ancora, dopo 68 anni dalla liberazione dal regime nazifascista, di resistenza e antifascismo. Questo perché sono tematiche ancora vive e ancora attuali nella situazione sociale e politica del nostro paese. Infatti sappiamo tutte e tutti che il fascismo ha molte forme e che ancora oggi un filo rosso lega la resistenza del 43 con i partigiani e le partigiane di oggi, che resistono e lottano nei territori contro le devastazioni ambientali e non imposte da governi sempre più autoritari e repressivi. Il fascismo di oggi è più sottile, ma non è così velato. Ancora una volta ci troviamo a combattere contro speculazioni che favoriscono gli interessi di pochi, imposte da un sistema economico fondato sul profitto che calpesta con indifferenza i diritti e la volontà delle popolazioni. E quando esplode il dissenso, la repressione brutale non tarda a farsi sentire e si abbatte sui movimenti territoriali con arresti, denunce e carcere. L'imposizione autoritaria e la repressione del dissenso sono una forma di fascismo e ne viviamo un esempio lampante sul nostro territorio, dove hanno imposto contro la nostra volontà la costruzione di uno degli ecomostri più grandi d'Europa, di un inceneritore che devasterà le nostre terre, inquinerà la nostra atmosfera, minacciando la salute di tutte e tutti i cittadini e le cittadine dei castelli romani. E quindi il 25 aprile appunto faremo questo volantinaggio la mattina, dopodiché faremo un pranzo popolare all'orto botanico di Genzano, che sta a via Matteotti 77, e quindi sia un momento di sensibilizzazione sulle tematiche antifasciste, ma come anche un momento ludico e di socialità. E soprattutto ricordiamo che diamo l'ultima notizia della giornata, ricordando che il 7 maggio il TAR dovrebbe decidere definitivamente una volta per tutte su questo bene amato inceneritore, che ricordiamo è un'opera mostruosa di 400 milioni di euro di soldi pubblici che verranno spesi per appunto un'opera inutile e dannosa. I compagni e i compagni sensibili sulle tematiche ambientali ovviamente non aspetteranno passivamente questa data, e dal 3 maggio fino appunto al 7 maggio si terrà un presidio permanente in discarica, davanti alla discarica, un presidio permanente che servirà appunto e da momento di incontro con la cittadinanza, servirà appunto anche per lasciare una presenza fisica nel territorio dove appunto andrà a cadere il primo mattone della devastazione, sarà una tre giorni, ricordiamo dal 4 al 7 maggio, piena di iniziative, dibattiti su ambiente e di concerti e momenti ludici per ribadire, per far capire ai vari giudici, ai vari cerroni, ai vari inceneritoristi e speculatori che che ai castelli c'è un popolo vivo che si batte contro per la propria salute e contro la devastazione ambientale. E quindi questa era l'ultima notizia di Oops, Connecting Fights, la trasmissione sulle sulle lotte ambientali e delle lotte dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia e nel mondo. Noi vi diamo appuntamento a sabato prossimo con sempre alle 2:30, sempre con all'inizio con il redattore noioso e poi con il redattore meno noioso. Rilasciamo i nostri contatti, c'è cioè il nostro sito che è occupazioniprecaristudenti.noblogs.org. Questa invece è Radio Default, www.radiodefault.it. Ci salutiamo con abbiamo ricordato prima Scansano Ionico, ci salutiamo con la canzone simbolo dei primi partigiani di questo paese, coloro che lottavano contro l'occupazione italiana del meridione. Brigante se more dei Musica Nova. Libertà a tutti e a tutti. Mamma usata chitarra e tamburo, ma che sta musica sa da tagna, ma brigante facimma paura, e qua scuppetta vorimma canta. E qua scuppetta vorimma canta. E mo cantamma sta nuova canzone, tutta la gente sarà tambara, non ce ne fottero re Bourbone, la terra nostra non e panna lotta pure Calabria mo se arrabutata e tu nemico facimma tramma e tu nemico facimma tramma e ha visto lupo e se mi so paura non sapa buona qual è la verità povera lupa che magna e creatura e o piemontese che vimma caccia e o piemontese che bestemmia per sta libertà è una bestemmia per sta libertà ah!